tre, prova. Ora, ora, ora. Ma c'è infezione, essendo diabetico, quindi mi ha creato tante infezioni anche al dito, eccetera, eccetera. Ma poi non è solo quello, il fatto che ho anche il femore adesso che sta andando male, non riesco manco a alzarmi dai dolori che ho, una cosa avvicinata mai avuto in Italia, dolori russi. Ah, ohia. Cacchio, cioè, è una cosa un po' preoccupante, nel senso che adesso sei anche un po' di tempo, così, insomma, è una cosa che dovrebbe essere già bella che guarita, eh. Lo so, ma guarda che io sono sotto cura a centro diabetico, eccetera, eccetera. La mia dottoressa, mi vedono tutti, sanno di cosa ho, mi hanno dato gli antibiotici, sto facendo la cura, però... purtroppo quando ne riapri di più così. Ah, capisco, capisco, sì, sì. E ricordo anche mio suocero Buonanima, bastava un taglietto, penso che ci metteva un bel a guarire. Tu pensa che si aveva grattato l'orecchio e era andata infezione, ti puoi immaginare. Adesso c'è un dito nel petto l'infezione. Adesso da che cosa è questa infezione? Dice che è partita appunto da quell'ulcera che c'è sotto il piede, ha detto il dottore. Poi mi ha fatto fare le lastre e c'ho il tacatacchi appena appena rosso. No, via. Un attimino mi devo lontano, scusate. KK, è un casino. Vabbè, i nuovi acquisti, anche se non rientra a lavoro, si possono fare già. Ti vende qualcosa. E a KK metti il gambo, senza che vieni. Allora, in che senso? Se tu stai vendendo, non è che se tu prendi denaro allo stipendio di taluna, ti vendi una cosa e te ne compri un'altra con gli stessi soldi, no? No, mi va bene la stazione che ho, mi sono accontentato di quello che ho, va bene così, ma non bene gli apparecchi che ho qui. Non ho grosse pretese adesso, non c'ho più l'ispirazione di prima che Claudio mi contagiamo, ma io ho figlio che poi lo chiamo la mia bello e via, il palo dice Edo era peggio di me. Alla fine l'abbiamo chiamato la casa, con proprio scambio. E vabbè, ogni tanto c'è bello anche cambiare. Lo so, quando si può, si fa. Ma diciamo che gli apparecchi che c'ho mi piacciono, non accontentarmi esteticamente le radio, non solo il fatto che stanno bene, quelli che c'ho a me vanno benissimo. L'unico un po' così è il Cobra che mi ha un po' deluso, però magari con un microfono c'è bene. Il Cobra non è un serpente. Lo so, ah, ci stavo cascando anche io, Gianni, ci stavo cascando anche io, in quella radio. Io, a me è piaciuto esteticamente molto, non esce il radio bene, basta mettere un microfono come sirena magari, siccome qua non c'ho lo spazio per mettere un microfono da tavolo, perché c'ho gli alimentatori, c'ho un baracchino, tutte cose a fianco, quindi non ho lo spazio. Se trovassi un bel microfono amplificato che non va bene per questo apparecchio, magari riesce anche bene. Prova una tattica di quelli debili, quello rosso, però cos'è? La prova c'è solo anguria, ma anche se vuoi chiedere un'altra oppressa, e come faccio io? Io molte volte chiedo un prestito, una cosa, e mi attendo che se esce bene me la compro, se no attento, potrei comprare le cose e poi non vanno bene, capito? Gianni, ma tu non c'avevi il 908 della Dunis per fare le connessioni? No, non ce l'ho più, no, l'ho venduto. Ah, allora niente, perché quella c'è bene. Oh, io sto cercando di allontanare più te, ma nessuno me ne dà. Cosa vuoi? Sto cercando un Turner più 3 in regalo, ma nessuno ce l'ha. In regalo? Ma quando regalo tutto, prendono tutto, non è che... Ah no, ma con pugna usci ti date una regalo. Cazzo è vero, se metti un regalo ti tartassano di telefonate, di cose, se hanno un buon avvendito su lo sacciara. No, no. Diciamo la verità che dove sto io ce ne sono una miriade, che però lo devo prendere per verificare se va bene quando tutto è a posto, dai. Poi pian piano faremo una selezione del tutto. E se va bene cercherò il cash e vediamo un po', vai. Guarda, io il Turner ce l'ho, il più 3, quello nero. Il 3B, non quello grigio, quello nero. E ce l'ho accoppiato col Cobra. Ma io lo voglio provare, come tu sai, con il Bau Bau. Ah, ecco. Gappa gappa. Allora volete pure attaccare, io fai rubare. L'importante è che abbaia quando lo slevo, perché sennò è inutile. Bene, bene, buonasera a tutti comunque. Ciao Antonio, buonasera. Buona. Quando lo sciolgo deve non solo ringhiare ma anche mozzicare. Poi Antonio Reserva, si calò. Ne hai messi questi finali? Ma cosa, che ho un mandolaccio. Oh, io non voglio di niente io, ciao già, ciao, ciao, Massimiliano, non voglio di nulla io. Sì, credo che è un androne. Non se ne può fare ragione là, ma dimmi una cosa, ma ti stai alzando per caso? Che cosa te lo fa pensare? Dalla voce che mi sembra dall'altra tomba, fa una cosa. Le cose sono due, l'ho agganciato. Comunque, sganciate che sei troppo saturo. No, mi sto veramente alzando, ma non sono agganciato. No, non sono agganciato. Ci mancherebbe altro che sei agganciato e parli, e quando sei agganciato non si parla. Rientrando, passa qua che ti vuole dare cosa. Stai anche quasi innescando. Lo so, cazzo di farla a scuola. Che microfono stai utilizzando? Un Roxel. Dice il DM1000. Va bene. Daniel Lucio che fine ha fatto, Daniel? Ecchi, ma là ci sono. Sono qua. Sto cercando di fare una bassa, ma niente. Ah, pensavo che non c'eri. No, ci sono. Ciao Antonio, ben sentito. Ciao Daniele, te la so che perché ma c'è una fortuna di alcuni padri da Kiev. No, propaganda tanto. Ha migliorato la radio qua. Sto parlando con il presidente. Sì, io ti sono bene. Due vatte e papper. Tanto non so se c'è gente in casa, o è qualcuno che ti butti appresso, quando tu si sente gente dentro. La propagazione è già. Femmine qua nel 10. Ah. Perché non la senti sotto? Anche io non la porto, guarda. Leggero. Fortino. Mara. Ascolta, ma quei finalini ce li hai lì? E ti dovete passare qua per quello. E ti faccio un sotto adesso. Il coso te lo porto. E provalo io, se ce l'hai lì sì, se no non c'è problema, lo sai. Sì, e qui è già caldo. No, allora lasciatelo lì. No, basta che te lo porto. Ma lo stai utilizzando? No, l'ho attaccato per trovarlo. No, l'ho acceso adesso, nel senso che lui è acceso tutta la sera. Io invece mi sono aspettato l'ho comprato. Va bene, dai. Così se stasera c'è qualcuno facciamo la prova al volo. Con questo però, eh. Ehi, dai, lo sgancio che te lo sto portando adesso, che poi torno qui un attimo a andare via. Signore, vi salutiamo le persone, diciamo Massimiliano, Gianni, Daniele. Alle prossime. Ok, avanti Dani. Ciao Anto, alle prossime dai. Buon proseguimento, riprenditi. Eia. Già va bene, dai. Dopo magari più tardi se c'è qualcuno faccio una prova a vedere se va in saturazione, una cosa che devo provare con questa palla qua. Che ancora non ho avuto modo di provare. Kappa, ma spero vedere cosa vogliono fare qua le donne. Scendo un attimo, le prendo subito. Va bene, siamo qua per il momento. No, quartiere 747, se la distanza. Mi gli sto dando i cosi adesso. No, ma poi, vabbè, per me anche quello di Daniele. Dovrò per maniera di trovarci fuori. Già abbiamo avevo il numero di telefono per comunicare, dai. Andrà bene, andrà bene. Dani! Eccime! E allora? Quando ci vai a fare adesso questo fuoristrada? Ehi, adesso, al prossimo inverno se ne riparla. Ah, l'estate non è fatta. No, già, l'estate è impossibile, troppa polvere c'è. Meglio il fango. Col fango pioggia, c'è più divertimento. Pozzanghere. Fucaccioni, portarmi la macchina. Quando è? Da poco, qualche giorno fa, sono passati una marea di fuoristrada qua vicino a casa, però nella rotatoria, dai. Forse c'era qualche uno che stava sposando, non è che c'era anche tu in mezzo. No, no, zero, zero, zero. Tu pensa che io ho la macchina ancora, sono passato dalla porcilaia e c'è ancora la roba alle magliari attaccata da 4 settimane così. No, io, vabbè, no, io ho un Outlander, non ho come la tua, che però solo sabbia, ma poi non oltre. No, no, la mia è bella che conditta. Già va bene, già va bene. E vabbè, io ho utilizzo con la famiglia, quindi non è che posso stare lì a impanarmi. Mi, quello che temo di più è quel fango argilloso, e quando si attacca, non lo togli subito, poi ti intacca l'ossido e poi inizia la ruggine. Sì, ho capito, però. Gava, vabbè, la mia è alluminio, quindi. Però io non ne ho per la carrozzeria, ma per le parti in ferro sì. Non è uno sport per me, Dani. Io ci sto attento a non sporcare la macchina, non posso manco stare in campagna, non è brutto. Ragazzi, riprendo io vi lascio, dai, che vado a farmi una doccetta. E ci sentiamo dopo se coincide, dai. Ok? Ehi, Massimiliano, buona passeggiata, dai. Sarà bene, assomiglia, dai. Se coincide più tardi, così vediamo se dalle due parti penso a trovazione, ecco, proprio appena arriva a turno. E adesso mi faccio una luce e poi, se in caso che non sono le donne ancora pronte, rientro, là, ok? Ok, Massimiliano, dai, se ci sono, ci ascoltiamo dopo. Ciao, vado a tagliarmi il 5 euro di cappelli adesso, la macchinetta. Cazzo, vado anche io, devo tagliare anche la barba. Dai, questa è buona mattina. I cappelli, va bene, devo andare a regalare 10 euro, faccio prima con la macchinetta io. E fai bene. Qua, credimi, un anno in campeggio eravamo a Pazzola e abbiamo portato la macchinetta per tagliare un po' la barba così accorciata, no? Penso solo con le barbe, ho detto mio cognato, aiuto, taglia. Ma scherzando per taglia! E ti riserva a tarra? Sì, c'è mio figlio che mi tremba. No, perché ti hai tagliato? C'è brutto! Spalmetta a passi. Oh, ma poi non solo me l'ho fatto io me l'ho fatti praticamente mi avevo lasciato la cresta proprio di sopra, tutto il resto rasato, solo i capelli, la cresta sopra lunga. Un altro invece ci ha fatto la chirica, l'altro ancora e me guarda, scemo, in tre o in quattro abbiamo fatto così. E anche a me è successo che ci diciamo rasati di tutto, però io non dico io al mare. La casa al mare che c'era lui ha preso la macchinetta, io l'ho fatta a lui e lui l'ha fatta a me. Allora, una volta che sto fatto. Ho ancora una fotografia, se mi lasciate, non ce l'ho più qua. Sinceramente, insomma, in estate non va fatica, anzi, ti dirò che vanno anche bene, perché poi la mano ti dà faccia esce quando ti dà testa nel suo tempo. Un poco di maniazzone, intendi, ma essendo ne altri. Ma no, non è vero. A me già andava bene, poi per lavoro che facevo io polvere, quindi quando ti esce fuori dalla faccia ti mettevi sotto il rubinetto anche la testa e ne approfittavi. Ah, quello si è già va bene. è una questione di comodità, non ti fa sudare, eccetera, eccetera, perché quando c'è il campione comincia di fumo. E allora, oh yeah. È così. Io c'ho un amico, Mario Urbina, si passa a controllare la lametta, si li batte e ci riduce. Beh, non sai che con la lametta non è che... non piace tanto con la lametta, con la macchinetta sì. E prima si passa la macchietta, poi passa la lametta e se gli fa proprio lucidi, tipo testa di ginocchio. Ecco, scusa un attimino. Però lui dice, per lasciare la metà dei capiti è meglio farsi di tutti, lui ce l'ha chi, i capiti, si fa anche con toro. Ah, beh, allora sì, ma adesso non si è attaccato. No, anche adesso, ultimamente se li ha fatto, troppo rasato e rasato. No, già ho capito già. Uno che ha la chirica, vabbè, perché gli mancano, a lasciare quelli gli altri attorno furti, insomma, è meglio tutto rasato, quello sì. No, Daniele stavo dicendo, ma non si è attaccato, Daniele? No, ti liscio come l'olio. Ah, perché la differenza già c'è, caspita. Sì, Santiago 5 adesso. Cava. Va bene, aspettate che c'è una bassa. Vai tranquillo. Comunque sì, 5 con quasi picchi positivi a 7. 6-7 fai. Va bene, va bene. Aspetta che sono questa oggi, c'è il divorzio, aspetta. Pesce che serve tanto, non vedo la macchina, già c'è uno di fuori, la più da lì. Ma se mai visto all'impunto, tre ne hanno bruciato le macchine. Ma guarda, sta diventando, io ci lavoro lì, no, in quelle zone lì. Sta diventando una cosa allucinante. Anche un camper nuovo, avevano bruciato lì, nella zona dove ho fatto il lavoro io, e mi dicevano che... sì, che era, faceva parte del Movimento 5 Stelle. Vicino a casa mi hanno bruciato due in una settimana, più di qua. Scusate, dai, ti devo mollare, sentiamolo proprio per il cancello. Daniele! Oh ragazzuoli, riprendo io che vi saluto, dai, sentiamo dopo. Ciao. Ciao già. E ti hanno andato via, Tutti via sono andati, tutti via, sono rimasto io e basta. Capo al rosmetro. Io devo andare a prendere la muzzareria. Vai, tranquillo, prima che te la prendo. Magari, cacchio, voglio qualcuno che se la prenda, nessuno la vuole. Non è riuscito. Però soddisfatti, vi è piaciuto senza rimborso, Così è. Le donne prima sono tutte brave, tutto il colore in piedi. tutti preziosi soggia, oh yeah. Va bene, dai. Ci ascoltiamo dopo, domani se coincide, dai. Buon fine serata e buon proseguimento. Ciao, ci sentiamo, Dani. Buona continuazione. Ciao, già. Allora. Chi è? C'è nessuno? Io, ci sono io. Ciao, Gianni. Di conto della radio, per favore. Sei stato? Aspetta. Allora, 1, 2, 3. Ancora? Fa un passaggio lungo. Aspetta che accorgo, Ora, vedi un pochino già. E adesso ha migliorato. Ma ha migliorato oppure, cioè va bene oppure no? Ha migliorato un tantino, ma si è ancora compressata. È compressa, vero? Guarda adesso un attimino. Non passaggi lunghi, facciamo una randata. Vedi un po', guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vanno andando come deve andare, se lo considerare. Non è chiara, dai, ti dico la verità. E infatti, aspetta, Così invece la radio com'è, già? Adesso va meglio. E perché non alza? Ora, 2. per provare. Posso entrare in saturazione, vero? Sì, ma di più. Ma va bene, allora. Che valvolare? Aspetta. Ora. Aspetta, c'è una cuffia. Ora. Adesso va bene, vero? Sembrerebbe di sì. Adesso non è. Non è satura. D'accordo, vai. Rimetto tutto quanto a posto, scusa Gerardo. Grazie del controllo. È crollato il segnale. Cos'è? Sino, in questo passaggio. Ciao Gianni, è crollato il segnale, sì, Santiago 8. Sì, lo so, ciao Marco. Vabbè, però sono attaccato, È il segnale di ieri notte, sicuramente. No, molto più basso. No, è insolitamente basso. Tu sei oltre il 9. Nudo e crudo, mi. Guarda un attimino, Marco, così. Adesso ci siamo, modulati 6, 9 qualcosa. Vabbè dai, ieri non ero così, Guarda, ora, 1, 2, 3, pro. No, stavo provando un amplificatore. Beh, ti sei ripreso dallo shock di ieri notte. Aspetta, devo accompagnare un amico fuori e poi riprendo. Ciao Gianni. Ciao Marco. Adesso perché io non ho l'articolo da te fatto? Sì, le 11 forse, o forse 11 e mezza, o parlando di cose così un po' pesantucce. C'ero io, lo profeta e Tino, eccetera, dai, cose che magari, sai, questa era meglio parlare roba più leggera, cose per tutti. E io sono i fornelli già, quindi vado e vengo. Poco fa acceso era deserto, e dappertutto, PMR, tutto, saranno tutti alle bancarelle, o l'ippodromo, o vedere i balizzardi. Ma era una bella rotta, c'era poco fa. C'eravamo io, Daniele, in rotta, Tino, Bulldog. Poi sono usciti un po' tutti, quindi io ho staccato un po' e sono andato a fare un po' di terapia dalla gamba, perché non ce la faccio più, non riesco più a muovere il capo di gamba e mi sto emanando un po' di calore con la stufa, quella d'aria. Speriamo che riesca a mettermi a posto. Oggi praticamente avevo messo la cavalcata su videolina, no? Però praticamente ho dormito la mattina, ero sonnolento. Poi mi sono dato film, video musicali, ho ascoltato musica, così. Ma non sono passata così la serata, musica e film. Ho dato un'occhiata alla pasta, via. È tutto qui. Poi ho sentito che c'è sciopero del benzinaio, spero di non averne bisogno, perché oggi non sono voluto uscire, se no avrei fatto benzina. Tre giorni. Anche loro dicono che guadagnano poco e si stanno inventando per questo, che sono solo le società e basta. Purtroppo troppe tasse in Italia, al fine tutto quello che paghiamo la maggior parte va in tasse, a loro va ai benzinai veri e propri, non lo so quanto vada. Vabbè che tutti piangono miseria, anche gente la vedi ricoperta d'oro e piange miseria. C'è gente con macchinoni, bracciali, orologi panerai e li senti lamentare miseria. E quello è il colmo. Già è vero. Ci sono quelli che si lamentano sempre a prescindere. Ma questo dei benzinai penso che abbiano anche un po' di ragione, perché hanno un minimo guadagno da un litro di benzina. Ogni tanto in Francia, vabbè, ho visto i casini per altre cose. I pastori sardi già si sono fatti sentire, però hanno fatto cose che sono veri e propri reati, assalti a cosi, sbattere fuori l'autista, buttare il latte per strada, il latte non loro, il latte di altri, così hanno danneggiato anche altre aziende e infatti già li stanno inquisendo. Hanno anche incendiato un carro, c'è per questo. Qualcosa del genere. cioè finché butti il latte tuo per protesta è un conto, ma assalti proprio in passa montagna, roba del genere, non, quelli sono veri e propri reati. E quelli non te lo mandano a dire, mi magari anche c'è brutta zona nuvolo, mi mamma mia. Ma infatti quella zona lì hanno incendiato un camion, eccetera, eccetera. Hanno assalito il campo dell'Armorea, adesso cosa c'entrava? Gli hanno buttato gli yogurt in terra, tutto quanto che si viva via, no, va bene, non è così che si protesta, poi stai danneggiando altri, quindi non dovrebbero danneggiare gli altri, dovrebbero dimostrare loro e basta, la dimostrazione la devono fare loro, no? Danneggiare anche le altre persone che non c'è. Ma nel loro egoismo loro pensano non lavoriamo noi, però non facciamo lavorare neanche gli altri, capito? Scusa già che scappo in cucina a vedere se l'acqua è evaporata. Ora, e ora com'è? Ragazzi? No, guarda un attimino, ci ha cambiato qualche cosa. E adesso si sente bene. Si sente bene? No. Non lo so. Marco. Marco è andato a girare la pasta che sta pranzando. Ah, certo. Quindi no, non parlando di saturazione, Gianni. No, è appena compresso, ma non è come poco fa. Confermo. Troppo compresso, troppo compresso, Aspetta un attimino. Adesso invece ho abbassato tutti i watt, vediamo se riesco a tornare. Ha cambiato qualche cosa ora, guardate un po'. No, sì, non era troppo compressa, era un po' compressa, dai. Passabile, poi quando c'è già quella roba lì è inevitabile quasi, un po' di compressione della radio. Sì, vabbè, ma il problema è che è questa radio che ha il problema in sé. Adesso per dire, la modulazione è compressa ancora? È un po', però ieri che eri liscio, credo, no? Dal segnale. Quella radio, quando parli basso, quando parli un po' più lontano, si nota una certa saturazione, o compressione o saturazione. Poco, ma lo sentivo anche ieri, poi non ho detto nulla per evitare. Probabilmente nasce dalla radio la compressione, non tanto dall'aggeggio in più. Certo, certo, certo. Ma infatti io voglio vedere se era possibile accoppiare questa radio con questo amplificatore, oppure prendere l'amplificatore e metterci una tassonetta, capito? Diciamo che dovrei cambiare un po' il tutto. Aspetta, dai. Almeno per il discorso c'è la radio e c'è l'amplificatore. Ok. Vabbè, la pasta l'hai messa. Ehi, ancora un minuto, ha suonato il timer, però credo che sia fatta. Poi metto il condimento e tutto. Ti volevo dire già, guarda che il numero telefonico di WhatsApp non c'è più. Siccome Iliad me le ha rotte, non ne ho potuto più, ce l'ho buttata la scheda. Ce l'ho buttata. Quindi chi c'ha WhatsApp con quel numero non c'è più. Poi provvederò a riorganizzare il tutto. Sì, via, tutti quelli che se l'hanno messo non sono stati contenti, non prendeva nessuna parte, la talina della cavalla, se l'hanno trovato amico mio, tutti qua ce lo stanno togliendo. Corti, problemi per ascoltare le persone. Oh, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso con che apparato sì. Adesso è sacro. Fai un passaggio di tutto. Allora, attimino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sta andando con circa neanche 120 watt, No, non è sacra, è molto meglio dell'altra. Ora, aspetta un attimino, provo a cordare. Ora. Non lo so, vedete un po' se ha cambiato qualche cosa in radio o già. Io preferisco con questo apparecchio, ma preferisco con questo apparecchio. Sì, vabbè. qualcosa, se tu mi devi dire come ascolti, ecco. Ma leggermente compressa, ma non più distante, è tutto appena appena, però la radio è chiara, diciamo, capito? Aspetta, faccio una prova, guarda, ho usato un po' il mic, è un po' di toni, vedi se ha cambiato. Fai un passaggio lungo, perché così non si capisce. L'ho fatto, nel frattempo stavo parlando, giusto per farti capire. Allora, così ho praticamente il mic a 10, mentre invece così è a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i toni sono a 1, lo mettiamo toni a 2, questo è il toni a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questa è la modulazione che spiego prima, ecco. No, è più o meno uguale, c'è quella leggerissima compressione, ma proprio leggera. La radio ho migliorato, dall'altra ho migliorato, c'è tanta di più. Vabbè, questo è un altro apparato. E se faccio così, guarda, già sotto il rapporto a 10 di amplificazione e abbassiamo anche i toni. Guarda se ha cambiato, se ti piace di più o meno. Ehi, a cos'è più chiaro? Guarda adesso, ho abbassato ancora i toni e ho aumentato ancora un pochino l'amplificazione, i toni adesso non ne posso più abbassare. Così va meglio, dai, facciala così. Così va meglio, più chiara. Va bene, quanto sta arrivando lì da te? Oh, non sono neanche 100 watt. No, perché mi stavo mettendo gli occhiali. Ecco qua, diciamo che non sono neanche 100 watt. Ora, ora, modulati 120, poca roba. Un valvolare così piccolino, non è che... 9,30. Va bene, allora lo lasciamo attaccato a questo. E l'altro lo utilizziamo senza niente. Ma infatti, proprio città non avete bisogno di manco lui. Città non c'è manco bisogno. No, no, non mi interessa per la città, lo sto preparando per quando magari verso 45 così. Aspetta un attimino, guarda se lo può segnare, ti faccio un altro passaggio. Dimmi quando sei pronto con lo smitter, guarda lo smitter. Vai, vai. Ecco, questo è il primo passaggio, adesso dovrei abbassarmi, però devi abbassarti. Però dovresti guardare anche se ha cambiato la radio, Quanto usi? Ti abbassi poco, no, ogni volta, appena di meno di 9,30, sì. E la radio è buona lo stesso, dai, va bene lo stesso. Va bene, dai, così sono 80 watt, vediamo se ve la ricordate. Il problema di questi valvolari è questo, più scaldano. Questa è la sua posizione, A me i valvolari non sono mai piaciuti, dico la verità. Uno per spazio, l'altro perché fanno le stesse cose che fa quello con i finali a mosso. E tre i transistorizzati hanno la stessa resa e con meno spazio anche. Lo so, hai ragione già, però questa è una cosa che io avevo da anni, ce l'avevo conservata e adesso proviamo a farlo funzionare, se va. Ah, non pensavo che fosse qualche acquisto che avessi fatto adesso. E vabbè, ti scusare ancora. Ma le valvole non saranno consumate, no? Perché a volte le valvole consumate creano questi problemi. Ma stai schiacciando quelle macchie, a volte mi dai i bip puntini. Non ho capito cosa mi hai detto. Si è indebolito. Cosa? Si è indebolito Gianni, non ha più forza. Ah, ciao. Già, come sta arrivando lì qua? Troppo alta la modulazione. Aspetta, abbassiamo un pochino. Guarda un po', abbiamo alimentato un pochino. C'è saturazione qua? Un po'. Ciao a tutti, buonasera. Va in saturazione, satiro. le radio valvolari già mi sono meglio, lascia perdere lo spazio, sono meglio delle transistorizzate, hanno la ricezione più calda, prendono meno splatter e sono molto migliori di quelle a transistor. Noi stiamo parlando di lineari, ciao Marte, lineari, non apparati, di lineari. Ha detto che quelli transistorizzati è un po', ma non spaccano, non la stessa cosa. Se per dire ti faccio un esempio, 7400, dai gli stessi tratti di un BV 131 che ti occupa il doppio dello spazio, se non il triplo. È quello che sta per confrontare a quello. No, no, gli apparati valvolari è un'altra cosa, quello è vero, quello che stai dicendo. Anche in lineare, vabbè, quelli così piccoli va bene, hai ragione, però se devi andare 2, 3, 4, 5 kW transistorizzato ti costa un botto e ci vuole un alimentatore da 200 ampere. Quello sì, quello già è vero, ma stanno usando la lineare, basta, la città cosa deve fare. Io sono padre lì. E tu 747 usato lo stai? Mai usato, non l'ho mai usato, non ho usato mai anche un altro che ne preso da poco di radio, un Kenwood, ce l'ho sempre imballato. Allora, sono tornato adesso, sì, non era una riunione a tempo di autostudi, ho capito, quando vado a queste cose pure, non dormo dopo pranzo, è un macello. Mi posso immaginare. Però insomma, ci siamo divertiti, c'era un fatto con le moto, impennava, io lo facevo, bello. Lo so, poi insomma bisogna stare attenti anche a ciò che si mangia e si beve, perché sennò è casino. No, noi ci siamo tenuti in base, però siamo stati bene. Poi ti mando qualche foto, sempre foto, quando si carica il telefono, grazie a zero. Va bene, aspetta che attacco l'altra radio, ma questa è piccolina. Padre, ma con l'istrada non le stai più facendo? No, non ne ho voglia già, non me ne frega niente. Sono andato da poco con una greppa di mancanti, ma per carità. Come prima le capostipide, mi ricordo che le salite le facevi prima tu, per far salire agli altri. Quando c'erano salite ripide che andavano così per raccontare. No, no, già era così, in quel periodo sì, andavamo tutti amici lì, in quel periodo con le macchine, in quel periodo, ho parlato adesso, l'anno scorso, nella tanca di uno a Usilo, che già, scusa, a Usilo, che era 40 ettari, c'è un pensiero, ma devi vedere cosa hanno fatto, cioè, se trovo un video te lo mando, da paura, ma macchine diverse anche da quelle mie, parliamo di Renegade di 5.000 benzina, di macchine modificate alte un metro da terra. Quelle erano belle, quelle sono belle alla vedere dal vivo. L'otto. Sì, va bene, va bene. Te la ricordi qualche appodato qua, pare che siamo andati a Planta Ora con il fuoristrada, ci siamo fatti tutta la spiaggia, che siamo entrati da altri truppetti nel sino alle Vinici. Ehi, ce la fai oggi Carrello. Tutto il fuoristrada. Noi lo facevamo, vabbè, lo facevamo su Lucchino, lo su Lucchino dal Tortopettine, lo stesso andavamo fino al Tri, tutto via Despiazza, niente, cioè, tu si faceva, ora qua, poi, è vero, se lo fai oggi è un caso, ti trovo, paghi le conseguenze. Sì, solo se parcheggi, la messa. No, oggi non fa, vabbè, l'abbiamo fatto di notte, l'abbiamo fatto in realtà. Esattamente, il giorno di Capodanno, no, il giorno dopo, che ci siamo messi d'accordo ad andare a prendere una cosa tutti insieme, non abbiamo trovato a parlare più di assa, se siamo dovuti andare verso le Vinici. Oggi è cambiato. Ho parlato con uno della forestale l'altro giorno, ma ti fanno la multa, ma questo non l'ha preparato, io so che c'è anche il sequestro del mese, però questo mi ha detto no. Allora, ho fatto tutto la televisione, io non ho capito niente però. Aspetta, sì. O ti vuoi così? Ho aumentato la potenza, faccio TV e ammutolisco tutto. Adesso ti sento bene. C'è propagazione? Sì, sì. E dove la propagazione? Sui 10 metri. Anche qua c'è. E guarda, questo dovrebbe essere un FM. Ma dalla ferrata? È pieno in FM, anche in 10 metri, ma in 27 ce n'è un casino. Se sali un po' di banda vai in FM e li senti. sono anch'io, ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Sei rientrato? Però sto controllando perché non mi funziona il B-banda, come ha toccato qualcosa sul capo di connessione non sta andando. Ciao, ciao a tutti, buonasera Marco Scotti. Ciao Marco, sei sentito, buonasera. Chi è questo basso basso nella sinistra? Marco Sgorbio. Ah, viva, dammelo cos'è. Marco, ma tu sei? Sono io. No, è Sgorbio. Non posso seguirti, dai, vi riprendo fra un po' e però ho un capo in mano, un frontalino, non mi sta funzionando una cosa. Ci sentiamo fra poco. Saranno vicini. Ciao, da cui mi ricordavo che ero. Chi? Più forte ce l'hai qua, sempre, lui una paracena, da quando ce l'ha fatto. Io l'ho sentita raro, sono numero uno. E poi ci sono i fantastici, bugiardi. Guarda che su WhatsApp ti ha mandato il numero di telefono di quello che fa le previsioni al tempo. Aspetta che sto guardando, no, non posso guardare il telefono, ce l'ho in carica. Gianni, tu avevi la passione per la fotografia anche, no? Sì. Anche se non sei molto preparato sicuramente su certi dettagli. Canon, Nikon, Sony. Canon, sicuramente. Io ti consiglio la D60 che praticamente io ho avuto una bellissima macchina. L'ho venuta da poco. Sì, polacchi, da dove stanno? La D60, no, io ho la EOS, aspetta, dove non me la metto, aspetta, la chiudo, EOS, sì, boh. Allora, ricordati una cosa, che più basso il numero e più buona è la macchina. Io ci avevo la 60 era già buonissima, se hai la EOS 6, non la conosco, però suppongo che sia molto migliore. Con la mia era già perfetta, guardi, ti bloccava le immagini, tutto quanto. Molto bella, l'ho data che era nuova. Sì, ce l'avevo la passione, poi ti racconterò. Ho fatto praticamente io, mi proponevo di tiri da svolgere e poi partecipavo a concorsi fotografici eccetera eccetera. E avevo fatto tutte le chiese bizantine, poi sono andato a Bosa a fotografare quel nuraghe che c'erano da Bosa, ho fotografato Bosa, il castello, tutto quanto, il mare eccetera. Poi le ho scaricate su una pennina queste fotografie. Beh, è entrato mio nipote e mi ha fatto un casino nero, mi ha cancellato tutto quanto. E dal giorno mi è passata completamente la passione, perché ho detto basta, erano meglio le macchine, quelle non digitali, quelle analogiche, che almeno le sviluppavi, c'avevi la fotografia in mano, invece queste qua mi passano nulla, te le cancello proprio con programmi a ricercarle, ti apri il file, però cioè, trovi il file ma non li apri, capito? Ne ho capito. No, io ho preso questa EOS. EOS, vaffanculo, dove c'è? EOS M6, se tu guardi su internet, perché non è una full frame, è una mirrorless, perché c'ho poi la Nikon, come cavolo la vuoi chiamare, 5004, quella invece è una full frame, perché molti dicono canonico, allora ho giocato il cagano, e mi pare c'è una precisa stessa, non cambia niente. Allora, la Nikon ha molti difetti, è soft, si rovina, molte volte sfoca l'immagine, devi mandarla a fare aggiustare, eccetera, eccetera. Io ho molte volte amici e poi quando io ho preso la macchina fotografica, avevo un amico fotografo che lo fa proprio di mestiere e gli ho proposto come tu hai proposto a me. E mi ha detto, senza ombra di dubbio, prendi Canon che vai alla grande. Io gli ho detto, il modello è detto, quella va benissimo, prenditi quella che sei tranquillo. Io l'ho pagata sugli 800 euro. E così questa. Però questa è una mirrorless, la differenza è che più ridotta, più piccola è lo specchio diretto, adesso io non me lo intendo che sono un asinaccio, e invece le altre hanno le reflex, riflettono quelle grandi, costano molto di più perché i sensori costano anche 2-3 mila euro. La mia l'ho comprata con l'obiettivo 70-135 già così dalla casa, quindi non ho comprato nulla né grandando niente, ho lasciato quell'obiettivo lì e facevo tutto con quello. Ma ho fatto tante cose, capito? Solo che me ne varano le scatole, perché ti ripeto, mi ha rovinato tutto. E cosa li facevo? Non ho fatto. Guarda, in quel momento è venuto proprio la pugna di fare. Ho fatto chilometri e chilometri per fare quello fotografico, ho fatto San Carcia, San Gavino, tutte le chiese bizantine, e poi ho fatto anche tipo paesaggi, roba del genere. No? E devo partecipare a questa gara fotografica che invece è un cane. Ma dimmi una cosa, ti vuole la fotografia? No, anche per le balle, così mi piace, intanto oggi l'ho usato. Ma guarda, c'è la propagazione, è vero, lo oscilloscopio, gente sta parlando ovunque. Lo so. Ma c'è mio cognato che si è preso la passione della fotografia, che però finanziato da un'altra persona, l'ha pagata 1500 euro, quindi sì, come raccomandazione per le balle, credendo di fare Mario Monti, tra virgolette, però. È sempre in Baia del Leone, se vissimo a no, io non devo fare niente, devo fotografare le antenne, la radio, intanto le macchine, ma sei un capo. No, io ce ne ho macchine, ho la Nikon da un po', poi ho una Sony bella mirrorless e una Canon per suo obiettivo, quella che preferisco comunque la Sony. Vabbè, proviamo a parlare in FM un attimo qua, potete andare? Sì, qua sì, non so se mi senti bene. Sì, vediamo un po'. Secondo me c'è molta gente, poi sento splattere in SSB qualcuno. Tu non posso passare, no? È così, no, è buccia di gioco. C'è sì in FM quanto tira questo linea, si abbasso. E beh, prego. My friend from Italy, yes, where are you from? Alemania, Bavaria. Alemania, Spain, ok. Tanksen, buona tarde. Good morning, good afternoon. Abba. Ciao, my good pal. Favete il sassareso? Yes, I'm from Italy, Sassari, grazie, ve la gallo a casa oggi. Ok, Italy. Namaste español. Yes, my friend. I have two stations, I'm listing, I copy two stations, one station in Spanish, in Spain, and one station in Germany. Germany, cuccia un attimo, just a moment, my friend from Spain, adelante. Già ti sento. My friend from Spain, you copy? Io copy. E cosa? Come decirle che siamo in Madrid? We are in Madrid, ok, I'm in Sassari, Sardinia Island. England, no? Are you in England? No, I'm in Italy, Sardinia Island. Ok, Italy, ciudad Sardinia. Sardinia, no? Arbicio. Senti Sassari, te lo risendi la mia doia, Sassari. Sassari, ok. Te copio muy bien, mentre por aquí bastante bien en FM. Me stai gallando por il Santiago de 7, modulación 5. Sto trabajando con un baracchino Tokai e un'antenna vertical Mantova 1 e la potenza di 5 watt. Ok, yo estoy aquí mientras señal de Santiago de 9 más Son radio de 5 bastante estéreo, o sea, muy bien, muy bien. La antena que tengo en el balcón es una Ismas 2000 Saracen. Ok, 2000 Saracen. Yo tengo una antena de producción italiana Sigma Mantova 1. E non ce n'è per nessuno. Aspetta un pomito, io mi chiamo, mio nome è Walter. C'è per ahí Tino Muscolo. Tino, lo senti lo spagnolo di Madrid? Arriva più forte di te. Arriva fortissimo qua. No. Sì signor, sì signor. Ok, ok. Pues te copio como si estuviéramos... Allora, 5-9 reale. Buonasera a tutti, Marco Scorpion. Buonasera, amigo. Hola, buonasera, stazione Scorpion, della isola di Sardegna. Stazione Scorpio, sei mi gegrüßt, di stazione Orion. Orata. Roger, Orion, I copy you 5-9. Please 5, report for you. Please give me report. What is my report? Please, for Station Scorpion, Station Orion, over. Any report is 920 on the radio 5. Roger, 20-9. Many thanks, just moment Orion. My name is Marco. Stand by one moment, stand by. Another station near my home for QRK. Give me report for the other friends. Vai, little station di Le Punti. Ascolta anche a me, come sta andando la radio? Ciao. No. E mi collega, Dani Solerain, come Dani collega, ok? A te, tuo hermano, si ascolti dal nord della Sardegna, adelante che te chiama. Sì, ma se lo dici chi sei, ti non lo saprà mai. Dai il tuo nominativo, il tuo call. Attento amico, se ascolti Tango Indiano, Ronda Oscar, ma te Tino Muscolo, cambio. Bello, stazione Marco, Sardinien, Kene Migopi, Germany, Blueberry of Germany. Tabulotto. Ok Orion, one moment please, the other station near my home. Station Tino, Tango India, November Oscar, I call you. Please report for Station Tino, Orion, over. Stato io mi sono incaccanchettato a fumare wieder. Oh, non c'è molto, arrivano tutti fortissimo, 9 più 10, 9 più 20 arrivavo lì da lui. È un casotto, non si riesce a capire perché poi ci sono altri QSO che arrivano fortissimi. Bene, caga, pieno, perché c'è Spagna e Germania insieme, non si sentono fra di loro, li sentiamo tutti. Io sarei arrivato a 9.40, però non mi avrei trovato il tempo. Aspetta, ma adesso come fanno questa radio? Satura. Appena a 2 minuti, già tu di qui sei satira. Sì, aspetta. Hello, please, my friend from Germany, Tachchen. You copy station Diabolik. Ok, my friend, station Orion. Nürnberg, Roger. Okay, Orion, I'm near Marco. What is my real signal, Orion? My station is Station Diabolik. Okay, Marco, my name is Peter. Santiago 9 and Radio Superfast. Just a moment, my friend Germany. Orion, what is... no copy, sorry. On the Radio 5, Roger. Radio 5, signal? Signal is 920. 920, thanks, my friend. Also, you are 9 plus 20. Roger, on the radio, see? It's better, my friend Marco. Perhaps he died. Your signal is 5 plus 9 plus 5. Yeah. Okay, Orion, this is Scorpion. Station Marco. I'm station Diabolik, near Marco. What is my signal? Is Spiriti di Bio Vernaia, M. Walter, Whisky, Alfa, Lima, Tango, Eco, Romo, Diabolik. Ciao Claudio. My station, station Diabolik, ok? My friend from Germany, you copy? Sta parlando. You very strong, Walter, 001? Yes, 30 di Bio Vernaia. What is my signal? Walter, very, very strong, also 30 dB, 20 to 30 dB. Open 9, Roger. 20, 30 dB overnight, little QSB, thank you. Marco, vai tu. Walter Alpha Bravo, question Marco, this is a station Scorpio, please, give me a report, report for me, over. Marco, non è più 10 Marco, e sei più basso di 20 dB, non è niente. È su, sei Marco. Vabbè, io sono un giocato, ma lui sta usando il... il 7007 Ora io dico sono io, lo sono 11 battere. Io ho 12, è tutto. Cuccia. Heimbro, Bimbro, mi ho anche nucla. Divertite, va, che vado a dare la sussa al piatto invece che ai cartoffi. Ciao Marco, ciao Marta, ciao Tino, ciao. Ciao, ciao, ciao. No. Ciao Claudio, ciao Gianni doppio room. Gianni, tu non vuoi provare? È un cane anne proprio. Dai, sotto, sotto, del Cisa, ti piace provare, una lice, boh. Costa Marco, questa è l'ecstasy. Good evening from Germany. Marco, ti ho salutato, Marco, prova, pronto. Al telefono, a te. Ah, ecco, ecco. Pronto, amico, pronto. Giusto. No, perché poi dico un saluto, Non sono più maleducato come prima. Cartoffel, cartoffel, hai rotto i cartoffel. Oh, beh, it's a word out of pizza. Around. I don't know, I don't copy cartoffel, non copy. Czech Republic, ahoy, Sedentri, Piaggevic. Puoi traducere un aretto, Che non ce n'è per nessuno, ha detto, Walter il numero uno. Così, e basta, vabbè, dai, andiamo sulla fiducia. Suon sui di Vicenco. Dai, 9.30 a me, 9.10 a Marco. C'è un abisso. Guarda, non manca Spaliero. Prova Spaliero, prova a entrare adesso. La mazza di memoria perché non ho vedo il tuo segnale. Appunto, entra. Che ti alliscio il ferro. Stacca, vedi che te l'alliscio io il ferro. E tu sei sempre con l'idea attaccato, stacca che te l'alliscio il ferro. Ok, ma fazione USB, anzi tu fumi, Io sono Marco, io te l'alliscio forte qua, però se stacchi quel cacchio lineare che c'hai. Spera che devo rispondere al telefono. Allora, senti la bro, 3 km, non è che a Marco lo schiaccia, stacca, non vuole la pari nostra, e te l'alliscio io il ferro. Tu ce la fai. Mi sciolisciami, guarda, lo vuoi di più. Va bene, spenda, ma questo c'è. Non ce la faccio, sono veramente io, mi metto a 200 watt come c'hai la potenza tu e facciamo la prova. Ma 3 kW, una massa delle varie, raga, delinquente. Ah, che sono su, non ne ho 3 kW, non dire cazzate, non sono sotto. So, prende 200 watt c'hai però. Io ne ho, ce li ho 200 watt. Ma no, la linea che c'è tu. Vabbè, dai, lasciate perdere che c'ho fame. E poi c'è la partita, c'è la partita, l'ultima partita della Juve di Allegri. E poi ci togliamo a mettere le balle. Ciao a tutti. Ciao Claudio, non posso ripetere, sto facendo TV, mi chiama tra signora. Dovetta, non mettere appresso a Walter, che disturbi tutto il quartiere. Ciao. Sono un certo antenne. Ma Marco dice un certo particolare. Vado a cenare, ciao. Mi ha mangiato la pianta di nuovo come? Sono a sciogli. Cazzo ti non ti dico cosa c'ho, guarda, perché mi sta già avendo la voglia di cagare. Perfetto, oggi articolo ho conosciuto come Ricci. No. Vieni lì, Ricci, ma come Ricci è lui. Oggi leggeri, leggeri. Stamattina appunto ho mangiato un po' con cioccolato di cioccolato alle 2. Non so se era il vino o se era lo stomaco. Stiamo arrivando alla sera molto sicuramente. Ciao, dai, ci sentiamo. Ciao anche a te Gianni, ciao, ciao a tutti. Vivi, ora break, break, break. Chiama Diabolik, Diabolik. Sì, chi lo c'ha, Diabolik. simpatici, capito? Anziché sono spagnoli, francesi, sì, ma i tedeschi. Io non ci parlo perché non ci capisco, se no mi sarebbe piaciuto. Come sta la radio invece già? Va bene, non ti preoccupare, va bene, se te l'avremmo detto te. No, perché ho provato a attaccarmi. Ti sento meglio in FM che in AM, ti. Ti sento meglio in FM che in AM. Lo so, ma infatti questa radio è più per altre bande che l'AM, però lasciamo il tempo che trova, va bene questa per il momento. Sì, già va bene, ok, altrimenti ci sento blocco tra un tiro di palla e una fottettata, ciao. Allora, era il telefono. Guarda, si sta mettendo qualcosa e la radio si sta cambiando. Guarda così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ti riferma, va bene, lasciala stare così, non ci sono problemi, va bene. No, perché non lo fa, non te l'altro, guarda un attimino. Aspetta. Accordiamo. Allora, ora, ora. Com'è così? Infatti, ho detto, rispetto a... segnale come lì, guarda. 9, quasi 9.20, sì, quasi 9.20. Va bene, lasciamola così. C'è il mio segnale, Tino, dunque, va bene. Non dice una scala. Va bene, io ho gli stessi watt, no? 100 watt, 110 watt. 200. Allora... devo tenere 200, forse ne ho molto di più. Ne di più ne ho. 200 per 10. Casoli di lui è. No, che mi scatta il coso, il contattore. Claudio. Ok, my friend. Cieco? Ah, io lo sprava Poceschi. Aoi, aoi, moi camarato. Questo è cieco, come fa a parlare? E non è muto, no? Il so se aveva detto così. Andiamo, e poi quello di Sosso mi deve mettere la mamma. Mi gioco fidanzato, ma con una giga. Ma è una mamma che ti regga in giga, ti regga, e con tutti ti facciano le visioni proprio di giga dai bigliati. Ma Marco è sparito. Cosa lo facciamo qui con te? No, mangiare io la sera non c'è. Se sono costretto e sono fuori per pubbliche relazioni, ma sono a casa. Ma già a tempio. C'era questa riunione, ci siamo divertiti. Ma ti vuoi organizzare, no? No, a Claudio stavo dicendo. Lo so che la sera ferma là. Quei putti hanno incendiato altre tre macchine oggi, eh? Cazzo, è un vergognoso. Dove c'è Torre Skintu, là, il bar? Ah sì, io... Ma stasera. Allucinante. Per me, non è possibile che sono delle rivendicazioni che uno ha fatto qualcosa e incendia una macchina, perché hanno incendiato la macchina, il camper, di tutto. Questo qui poveraccio non ha fatto, non lo conosceva neanche nessuno. Sono dei ragazzini, li ha visti Gianni ieri, quando erano tiri che hanno bruciato la macchina in c'era ridicola, li ha visti Gianni scappando con un motorino, hanno lanciato liquido infiammabile, evidentemente hanno buttato la benzina sotto, poi qualcosa così e l'accendino, non so, qualcosa di acceso, la diavolina ha messo fuoco alle macchine. E la diavolina usano? Sì, la diavolina, molte volte buttano, la diavolina la mettono sotto le gomme, poi si innalzano un calma, già fatto da solo. E il problema la presentano un po', insomma, è una cosa bella. No, sono le accate che stanno facendo, ma... Ma c'è qua la carburante, hanno incendiato due o tre mesi fa un Audi A6, non vicino, comunque bellissima macchina, di un ragazzo che tra l'altro non c'è mai qua a Sassari, non c'è mai, lavora a Cagliari, fate il conto. Qua vicino a casa, mi hanno incendiato due in una settimana, questa settimana. Sì, hanno agattato, allora vedi che rimane dentro la macchina incendiati. Ma io dico, qua vicino a casa succede sempre verso le due, perché te non se ne rende conto, quando c'è qualche cosa di strano appaia, non appaia mai di notte. Diciamo dopo che stava abbaiando alle due, hanno bruciato la macchina. Quindi la polizia lo sa che a quell'ora lì incendiano le macchine, perché non ti fai un giro cazzo, con una macchina civetta, cosa, questi gatti? E hanno bruciato in un mese. sono entrati all'interno del nostro cortile qui, all'interno dei parcheggi sono entrati e incendiarono la macchina di uno sicuramente che aveva problemi all'interno. Tu immaginati come si fidano. Ho fatto più danno al palazzo perché sotto il sottopiano, il piano pilota, il primo piano, ha già un incendio all'appartamento, fatti un conto tu. Non mi era spiegato nulla, pure se ci sono macchine vicino che prendono fuoco. È una di quelle macchine che ha incendiato lì vicino al viadotto, in quella zona. Praticamente c'era una macchina nuova, nuova, fuori strada, comprato, questa ragazza l'aveva comprata manco un mese, nuovo. E ha incendiato la macchina che c'era vicino, ha preso fuoco anche questo. E questi sono, sono ragazzini come ha detto Mortre, non sono persone, persone così. Dai, vi risaluto, ciao nuovamente a tutti, divertitevi, io vado a cenare e poi mi guardo la partita. Ciao raga, alle prossimine. Ah, ok, chiaro. No, dice, Juventus Atalanta su Sky Sport 1 e poi su Sky HD 24 eccetera, c'è Napoli, tutte e due, le 8 e mezza, Napoli Inter. Allora niente, dai, pazienza. Non hanno mai fatto male a nessuno, proprio dopo niente, sei senza bruciato. Come li ha i punti o qua? Ha i punti, ha i punti. Gianni, ti ho mandato la foto, l'hai vista? Oh, ma quello che vedi, diciamo la banca. Sì, sì, anche a te. Chi è che mi ha chiamato? Ho detto, la banca, è successo. Ho detto sì, poi ho risposto, chi è che mi ha chiamato? Dove c'è Torre Schinto, il bar, l'assicurazione, la Sisa, quel palazzo verde, quella struttura grande. Ah, sì, sì, ho capito. Anche a KB l'ho mandato, ma quello non guarda mai niente. Avanti, Breco. Sì, ma se non lo mandiamo io, come facciamo per adesso? Datemi il tempo. Aspetta, ci aiuto, ci aiuto. Guarda anch'io, non ho per le balle. Aspetta, ti è arrivato? Cosa fai? Non rispondi, vabbè, se non muovi il microfono non mi rispondo, vabbè, però guarda dove diavolo è. Vabbè, vedi tu. Ok, niente, claro, non ti è arrivato. Vedo che non lo stai guardando, a meno che non hai cambiato numero. A me cosa hai mandato? A te ti ho mandato qualcosa lo stesso, mi sa vedere il K3B. Vediamo se con questa faccia TV ho dovuto cambiare antenna. Ti hanno dato qualcosa da remoto che tu sia appassionato. L'ho visto, ma hai detto che hai mandato una cosa a me che io non ho visto, ma cosa sei zia? A me non ha mandato niente, mi ha mandato tre video di quelli con la moto lì a tempi. E l'hai visto le macchine che hanno bruciato i punti? No, no, adesso l'hai mandato. Sono arrivato adesso. Allora, ricapitolando, che tempo è che ha messo domani? Vediamo un attimino. Migliacchi bastardi, c'è da... Ma proprio questi c'è da arrestarli e spararli, ma ammazzarli, non servono a niente, campare, ammazzarli. Cazzo, quella golf è una golf, Non è una golf, no. Là, quella lì è un Apollo, è un Apollo. È un Apollo, un appunto e no due appunti, una più vecchia e una più recente. Ma come si fa? Ma gli punti sta battendo il record. Gianni, da te da quanto tempo è che non incendiano? Non ho capretto, Gianni. Scusa, non sono al telefono, ti rispondo. Ah, calma, sono qua fino a domani. Sempre ne ha fatto 4 al Torino. Ma lo guardate, ero fuori. Ma non le cappi nere. Sì, questa è una po', ma po', appunto. Era tipo, no, non la collega. È un appunto modello più vecchio, quella che è in mezzo è un appunto sempre modello vecchio, quell'altro è un modello un po' più recente, diciamo, eh. L'altro è un appolo, sì. No, non avevo visto appolo, appolo. L'ultima settimana l'abbiamo annunciata. C'è. Era di una guardia giurata, di una ex guardia giurata che era pensione da poco. Nuova la macchina. Allora, fanno la fotografia, però state attenti, hanno incendiato quella di mezzo, e ha preso fuoco le altre due. Si vede? Si vede? Tranquillo? Ok, si vede, ok. E cosa? Ti vuoi? Ah, un attimo riesco a accordare. Perché quella di mezzo, ti è completamente distrutta, capito? Quindi è quella che ha preso fuoco. Essendoci prima di arrivare a fingere fuoco a sfogliare quella, ha attaccato le altre macchine. Perché vedi che sono una di un fianco, capito? Una a un fianco e una all'altro, vedi bene? Sì, io avevo detto quello, bravo. Sì, sì, ho visto, Ma è, via. Però quando sei in mezzo le decidono. Vi imbassa tutto, vi imbassa. È allucinante. C'era un periodo pure a Porto Sole, stava l'incendiato. Sì, a Porto ci hanno fatto la festa alla macchina di mio cugino, che aveva lasciato una vita di Aruba. Solo che era il consigliere comunale. Ma lasciamo perdere anche Porto Sole, stanno diventando mezzo imbecilli. Dai, dai. E pronto davvero, adesso vi saluto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Chiamato Massimiliano, Marco. Stavo salendo il tempo e ho detto, se il DAC è pronto vedo ritirarlo. Massimiliano. Altri ci sta lavorando, insomma. Ciuccio, l'istetto, come dicono la trinità, l'istetto è accunnato, come ti trovavo. Allora sai che l'istetto si è accunnato. Così mi ha detto. Quante volte mi ha detto ci sto lavorando. Un giorno l'ho pizzicato proprio lì davanti a lui al sollevamento, ho visto la porta aperta e ho detto entro, sono entrato così, mi all'improvviso la radio era ancora in terra, dovrò avermi messa tu mi sembra, il 1900, ricordi, eravamo a cassetta, dove eravamo appoggiata a voi, sì, eravamo io, tu, Marco, Fabrizio, dove eravamo messa a terra. Timino qua, aspetta che devo fare un attimino che a quello lì di punti, vedrai che bacia le macchine e torna un po' più moderato, un po' più a cuccia quando parla dell'uomo del monte. L'uomo del monte piglia sempre colpi da qua. Non ne sarei così sicuro, no? Aspetta un attimo, lascia fare addio. Lascia fare. Ecco qua. Con la mantovra 1, vediamo un po' come va la mantovra 1. Prova. Vediamo altra su un tronato. Vedi? Adesso quel picchi va a 15 watt. Ma salvo io, che avevo una roba che qua. Però se è negativo quando fischi. E importa poco T. Quant'è il segnale? 9-10. Contro il mio? Vabbè, il tuo è una moscara. Noi siamo più vicini. Però Marco, veramente, quando lasci portante bianca, no? E poi vai a fischiare e vai indietro. E continua ad andare a portare. No, è importante, T, non serve a niente. Non è, sono considerazioni, non servono in questa cosa. Break, avanti. Vediamo un po'. Volzlichi, Dachshund. Affari tuoi conto. Ja, Klef Unken Porsche. You listen Sardinia, the station Scorpion from Sardinia with the friends near my home. How are you? Buonasera. Mr. Schmerzen. Ti spocco in it. Ti spocco in it. Attention, my friend from Germany. You copy station Diabolik. Ulisse Sardinia. Sardinia, friends from Sardinia. CB from Sardinia, call. Okay, I copy you. I have the very strong scent of Germania. This is North Sardinia. North Sardinia. Station Scorpion. Scorpion is my call. Scorpion and the other friends near my home. Please, give me a report. Scent of Germania. Over, over. But my call, I call not in Italia. I call in English. This is the English language. Yes, thank you for 5-9. 5-9, also you arrived in Sardinia, Iceland. Also you arrived, 5-9. 5-9, also in Sardinia. My name is Marco. Marco is my name. Over, over. Marco. Manchester calling. Manchester calling. Okay, Roger, Andy, Roger, just a moment, stand by, the other station near my home, call you, vai avanti, di punti. Ti Morgani, station from Germany, you copy station Diabolik, number one in Sardinia. Copy, also, 59, 59. Cosa ridi, Salame? 58, 59. No, stai dicendo niente. Hello Radio, Manchester UK calling, copy. Thanks Andy, thanks. A piece of coffee for you, a piece of coffee for you. Ma non crepo. Ehi, è un faunaggio. Ciao. Un attimo, the other station near Roma is a station Tino, Tango India, November Oscar, station Tino, vai avanti Tino, facci sognare col muscolame. Attention Germany, si ascolti la morte della Sardegna, operatore Tango India, November Oscar, Tino, cambio, non è rapporto. Ja, und dann 40 Fuß bei mir in der... 5 Uhr, Alter, 40 Fuß. 40 Fuß, e tutti la Fuß. Oh, ich muss nur immer vom Kass hinten aufstehen. Dann auch mal den Eifers Kass hier nicht mehr. Enrico, you copy Diabolik, Walter. Yes, I'm here from my friend Marco Ettino. Testing 3 min, testing 3 and 10. What is my real signal, Enrico? Yo, Scorpion! Diabolik, number one. Okay, Enrico, bye to you. Enrico? No, qua c'è guerra l'ultimo. Sai che non stanno più arrivando bene, vabbè. Un po' di ombra arriva a te, il sole è venuto da questa parte, no? Hai capito, Ed, giù Gene con un amplificatore e Scorpio così con Pluto, te l'ho messo da parte e adesso ho messo dentro la cuccia a Pluto. Non c'hai Pluto e c'hai anche l'amplificatore, certo, ti crepa lo stesso, non è utile che fai prove. Fammi arrivare uno che lo sentiamo tutti, e lo vedi che lo sono. È perché non senti via Indy, ti ho dato 5-8, 5-8, 5-9. Ecco qua. 5-9, ma l'altro è 5-6. Magose, 5-6 sordo, 5-6 sordo. Ti ho detto 5-8, 5-9. A me 5-9, 5-9. Vabbè, è tanto inutile nasconderti. E sentiamo se c'è qualcun altro. Please, my friends, in Germany station, listen Sardinia, call. Oh, Victor 1, Delta Lima, Victor Delta Lima, Czech Republic, Roger, copy you, 59 plus 20 dB. Give me report, my name is Marco, Station Scorpion, Luogo del Monte. Un attimo che la bassa, Aspetta, ok, 5-9 plus 10. I'm Walter, how are you, my camarade? Moi signal, de cui è tecnico. Yes, I know, Ano, Javiem, in Ostrava, io sono Sardini, moglie Nama, Walter, Walter, Station Diabolic, my friend in Ostrava, what is my signal, my real signal, I want testing my bin with Marco, go ahead. Hai messo? No, 9 più 10, ma dove ho perso? 5 più 10 a KB. A te 9, tada. Adesso ti registro, caro, ma sei bugiardo mi. Ostrava. Please, Victor India, in Ostrava, mi reporta, I am Marco, I am Station Scorpion, please, give me report, Ostrava, Station Scorpion, over, over. No, non va bene. No, sono a buona, arrivano i tedeschi, no, non va bene. Sorry, I want call, one call in Germany. Due volte ti ho massacrato già, 5-9 più 10, a me avrate a te 5-9 più 5, 5-9. Ah, l'importante è che tu sia convinto di questo, Io l'unica cosa che ho sentito a te 5-9 a me 9-30. Però, la bello che è una malattia grave, tu ti crei fai un film e credi che sia vero. No, adesso ti registro così poi te lo rimando 100 volte finché non ti entra dentro la testa. Station Sardinia call, Station Sardinia call. This is Zelda, Uniform Oscar 25. My name is Marcel from Germany. Station Germany. Oh, good evening, Station from Germany. Please, give me report. This is Station Scorpion. Station Scorpion from Sardinia. Give me report. Over, over. Okay, 9 and 5. Santiago 9 and Radio 5. Please stand by, the other station call for testing a different signal. Please give me report, give report again for the other friends. Vai, Diabolic. Non lo sento io, dunque puoi dirmi quello che vuoi. Diabolic for testing the bin, give me my signal, please. No. Says Alexander, Station Diabolic call you, but I understand you don't receive. Ok, ok, Walter non ti sente probabilmente. Vediamo un po'. Alexander, give report, over. Sono qua, avevo una massa. Marco, si fa i film da solo? Sì, no, ho avvisato, mi sono dovuto lontano dalla radio. No, tu no, Marco, non ti riceve, non ti sei, tutto da solo. La registrazione te la mando, così adesso la smetti. Ci ho fatto la registrazione, no, te la sto mandando sulla chat, così lo senti. Cioè, perché devi dire così? Io sono sempre estremamente giusto e obiettivo. Se vinco, vinco, ma se perdo, perdo, lo dico, non me ne frega nulla. Non lo sentivi neanche, arriva la 5-9. C'ho anche il video, No, c'ho segnali più forti del suo che lo sono frambuolano in questa zona. E che tu non senti evidentemente. Tu puoi avere il video che vuoi, però qua io la realtà è che quando sento una stazione e la collego ti crepo. Poi quando non c'è tu ti fai il video. Mandami questo video che dice che non mi sente, che lo sputo nell'occhio da qua. Che brutto weekend. Please, again, Station of Sardinia call. Sardinia call. This is Station Scorpion and Station the group from Sardinia, please. Go ahead, break. Go ahead, Station Vienna. This is Station from Sardinia. Station from Sardinia. You have a great signal. Santiago 6, Radio 5. You have the 5-9 plus 5, plus 5. Plus 5 report for you. My name is Marco. What is your name? Over. My name is Jochen. Jochen, 10 dB over in this moment. Reality report. Give me reality report. Please check the radio. Signal is Radio 5. 5-6, yes, yeah. Attention, my friend from Vienna, I'm Walter, I'm near Marco. What is my real signal, my friend from Vienna? Your signal is Radio 5. Ecco che ti batti, 5-5, perciò hai perso ancora un'altra volta e c'ho la registrazione adesso. Sì, aspetta, ma prende, tu sei 9-20? It's not possible, signal 5, signal 5, you are 20 dB over 9, my friend. Questo è 9-20, Marco, lascia perdere. Ecco, lui ha passato, lui mi chiede se è andato. Hai messo ancora un'altra volta. passato l'entusiasmo, eh? Ti è passato, Fuffi, vai a cuccia assieme a Pluto, come l'ho messo dentro la cuccetta. Questa è la relazione, dai. E anche lì sono nella stazione, era un panino, era. No, no, è non vedente, dai, guarda, non vedo. Con questi segnali qui non esiste, 9 più 20 lui e io 5, ma lo tavi. Ma io non ci sono studio qua con la stazione del monte, ho riattivato qua tutto il monte, cioè al buio. Station my friend from Germany, you copy station from Sardinia, station diabolic. Break, break. Break, break, please, I testing to be with my friend. What is my radial signal? TF995. Thank you, Marco, vai. Ok, ciao, good evening, give me a report, my name is Marco. Marco, report please, over, over. 599. Ok, 599, thank you, good luck, ciao, e 2-0, Walter, porta a casa, ciao. Ma scusa, 5-9 a te, 5-9 a me ed è 2-0, com'è questa cosa? No, 5-9 più 9, ho detto, 599. Non dire cagate, perché ti sto registrando. My friend from Germany, what is my real signal, is the same from Sgorbio? Ma là la registrazione, però se mandano anche a testimoni, lo se mandano anche altri testimoni, così, così non ci sono storie. Ma potenza, no? 5-6, station my friend from Vienna, I'm Walter, I'm near Marco, what is my real signal, my friend? Sì, guarda che ti ho mandato il video anche a te, così ce l'hai, se hai dei dubbi poi se vuoi sapere chi è la stazione, più forte te puoi controllare. Presente? Non posso fare signal 5, signal 5, you are the other nine, my friend. Aspetta, arriva il segnale. Questo è un operente, Marco, lascia perdere. Tanto non, è come rubare il latte a un bambino, vinco sempre. Cioè, Tino, stai arrivando? vabbè, io non volevo, ma perché io sono a livello basso basso, non posso partecipare. con le registrazioni però poi non si sfugge, Appunto, te l'ho rimandata, Tino, l'hai sentita, la devo rimandare. Sì, l'hai rimandata, l'hai rimandata. E cosa ha detto? Tu cosa hai capito? Cosa c'è nella registrazione? Teatro 5-5. No, c'era 5-9 a me e 5-9 a te. Sì, quello è vero, quello è 5-9-9. Tu invece inserivi 5-9 più 9, 9 punti di struttura dietro ti metto. No, ma bisogna dare merito alla stazione, cioè vuoi mettere. E l'altra registrazione cosa dice invece? Sentiamo. No, no, non ne ho altre. Non hai altre? Preferisci non sentirla, sono su bidrari. No, cosa bidrari? Quello lì era non vedente, quello che... No, può darti un segnale 5 a te o 5 a me e lui arriva alle 9.30, io non diciamo cazzate. Quello già, insomma, ho ascoltato il dubbio, ho fatto. Se arriva alle 9.30 lui è... Non vuol dire niente, Tino, non scadere la... Lascialo perdere, tutto è a favore suo. Prima che è entrato, che ha buscato uno, ha detto 9.10, 9.30, lui per quello non esisteva, capito? Quello l'ha già dimenticato. si ricorda questo cieco, Zoppu, che ha detto 5, a lui 6, questo si ricorda. Più 5, o che ci sia scritto 9, o che ci sia scritto 6 e l'altro ci sia scritto 5, o che ci sia scritto 7 e l'altro 6. No, no, è così. La differenza è che ha vantaggio della frazione che ti ha ricevuto più forte, punto e basta. Sì, con la farina si fa la pasta, prima era 9,10, tu eri 9,10, 9,30, l'ha dimenticata questa, sì? Sognata, mica c'è un breco breco, invece di andare a vedere gli altri che corrono, mettiti qua in pista. Aspetta, avanti il breco, se mi ascolta. Sì, avanti il breco, avanti. Andate voi, dai. Alexis, Goep. Bene, tu parli piccolo italiano, come mi senti? What is my signal? Non ho capito, quanto è il mio segnale? 5, te l'ho detto chiaramente, ma non lo senti proprio, Io sento il più 20, aspetta, stati zitto un attimo. Per favore, dammi come ti sto gagliando, pure il mio segnale. Buonasera, Italia. Niente, lo spagnolo è sparito. Amico dell'Austria. Buonasera. One moment, Spanish, one moment, por favor, Spagna. My friend in Austria, Tankchen, my signal, please. No, when do you speak? Cool, please, you are cool. Okay, Vienna, what is my signal real? 9 plus 20, correct. Si mette lo spagnolo. What is Germany, over. Grazie, buona grazie a Vienna. What is my signal? 9 plus 20, 9 plus 20, correct? Suggerisci di che mandagli una lettera e un messaggio WhatsApp, ha fatto un brolo. 9 plus, ti sono registrato. Please, give me a report a me. My name is Marco. Please, report for Marco, Vienna. Report for Marco, over, over. Vienna, Vienna, please, report for Marco. Report for Marco from Sardinia, over, over. Non ti sento. Guarda che mi ha detto di mandargli una confezione di formaggelle assieme, che così ti risponde. Vienna, you copy Walter? Ah, thank you Vienna, thank you for 20 dB overnight. Marco, my friend near my home, what is your signal? Signal from Marco. Sognato dirai, è proprio sognato questo di Vienna. No, non l'ho sentito, lo so l'amore. Go ahead, break. Station Mike Papa, Station Mike Papa from Germany. This is the Station Scorpion from Sardinia, give Roger. Ok, Panos, sta qua parapolicolà, e andiamo là res che è così. Posso mi accusi in italiano, come mi senti, o in English, ma il real signal, Panos. Ok, thank you my friend, figure stoppo lì, per i meno ligacchi, chi è una filo. Allora Marco, 9 più 40 mi ha dato, prova a chiamare a Panos, vai. Sì, sì, 9 più 40, l'ho sentito proprio, era chiaro, 9 più 45 era Walter, era 9 più 45, anni di galera che ti diano, ma andati bene. Parla con Panos, chiamalo. Ma ha fatto un brodo Walter, e tu e Panos. Ma lo senti, ho capito. Panos, Marco, senta cui. Sì, Panos, mandami la registrazione di Panos, che si fanno risate, ma io e finirà, io lo stai parlando con Stazione di Ciovicciomi. Walter, Walter, vuoi il segnale, qual è il segnale più forte, Panos? QSL, Panos, QSL. Io sono, I am here, parlo in inglese, non in greco, se no non capiscono gli amici. I am here with my friend Marco, testing my station. What is the signal big? Ok, Roger Fred from Fesside. Thank you for 950. Many thanks. I'm very, very happy. You receive only me 950 from Fesside. Ah, ok, thank you. Just now, stand by. Another station, little station from Sardinia. Pichinia, Pichinia. Diabolic, vai che c'è Fred negli Stati Uniti che ti vuole collegare, non vedo l'ora. Scusa, sorry Panos, ma Marco venta qui, Marco non ti sente, adesso ti mando la registrazione, Marco ti sputtano. Tino, ci sei? Sì, ho sentito, io ho sentito. Lui non lo sente, lui continua a dire così perché non lo sente, aspetta un attimo. Ma se c'è segnali a 9 più 10, a 9, 9 più 10, ma il video non l'hai visto. Invece non ci sono. Allora, senti. Ok, Panos, saputo per la policolà, e mi amo Nades che è così. Vos mi accusi in italiano, come mi senti, o in English, ma in real signal, Panos. E se dico per i stronzi, tu non lo senti, perché sei una linguaccia. Sì. Sì. Tu, quando andiamo a est, non senti niente. Ti faccio il tuo a est, 9 più 40. E adesso non dire più niente sino a domani, è zitta. Prego. Ma ho fatto un breve, non dire niente fino a domani, però la sensazione che puoi avere sentito io, non sento perché mi arrivano segnali fortissimi da altre zone, e tu ne senti una da una parte, io ne sento 50 dall'altra. Panos, dove sei? Dove sei, Panos, che ti faccio venire io, ti faccio bere bene croccante? Un guacci. No, non ti sente, Marco. In Grecia non arrivi tu quando c'è questa propagazione, io verso la Spagna perché sei in alto un pochettino ti sento così, ma come tu appena appena in salita sei morto, ti ammazzo per tutto il resto del mondo. Te l'ho registrato, ti romisco, hai sentito questa prova testimoniale veritiera? Ma cos'è questo casino ad Alfa Lima? Cambio via Alfa Lima. Marco carissimo, Marco carissimo, ciao, buonasera, aspetta che cerco di sintonizzarmi. Gaffa, ciao zio Walter, ciao Marcolino Giotto, dalla bella Alfa Lima, arrivate a bomboletta, gaffa. Aspetta, ho ascoltato Marcolino, ciao Marco, mi ascolti? Gaffa, carissimo figliuccio. Aspetta, ho ascoltato Marco, mi ascolti qua? T9. Aspetta che tiro il piatto da un lato, non arrivi ancora finito. Con che segnale li ascolti, Marcolino? 5-9 spaccato, 59 reale con la verticale, caro. A te ancora. Ok, aspetta che c'è Tino che ti voleva salutare. Avanti, Tino. Ciao, Marcolino, mi ascolti, nella mia zona. È certo che ti ascolto, Tino. Qua ascoltiamo tutti. Come stai, caro? Bene, no, voglio sentirti, dai, danno un rapporto anche a me, e così almeno faccio vedere altro due. Com'è Marco? Lì, un po' più basso, 6-5-6-5-7, qua d'Alghero, però sempre comprensibile, Tino. Sei comprensibilissimo, senza problemi, eh. Non è la modulazione presente come quella di Marco. Comunque, devo dire che Walter è quello che in questo momento qua sento meglio. Walter, vieni avanti che ti do un controllo, K. Io Alghero sono un po' negato, però da qua, dalle punti, da qua mi difendo un po' meglio. Ciao, Marco. 10. Marco 9, Tino 7. Ma non mi dico così che Marco di Manuole si taglia le vene. 9.40 in Grecia, sono arrivato e lui non lo sentiva. Vabbè, dipende dalle zone. Ma io come arrivo? Datemi un rapporto sincero, schietto e sincero. Ti faccio il video, guarda, adesso, perché ormai andiamo avanti a forza di video qua, eh. Perché qua vediamo un po', scampia vedo questo casino. Aspetta un attimo, sto chiamando direttamente su AMP. Petretto sta mandando video, maledetto, ma ti mando quello del 9.40. Vai Marco. Sei cappa, dai, lo sto facendo anch'io il video, io sto andando con i fatti dell'apparato. Ok? Tu sei 5.9 più 5, 5.9 più 10, vieni avanti così ti vedi, vai Walter. Aspetta, non riesco a fare il video con questo telefono, un attimo. Vabbè, per me va bene, così mi vedo. Vabbè, falla anche a me che altrimenti non c'è gusto. Dimmi quant'è, leggi. Check the radio. Marco, arrivi però. Arrivi un po' in mezzo al QRM. Strappato più che altro. Tu chi sei che arrivi sparato? Marco, Condor Sassari, buonasera. Oe Marco, Condor, sei tu 9-10, arrivi bene? Perfetto, io ti arrivo bene? 9 più 5, vabbè, ma io ho 70 watt sotto. Capo, io sto andando con 80 spaccati. Oh, bene, Walter, te lo sto inviando. di quello, ciao Marco, fondo, qual è? Te lo sto mandando, è l'ultimo che ho fatto. Guarda così invece come sto arrivando, Marco, ho cambiato. Vedi tu. Padrino, sei il mio orgoglio, sei il mio orgoglio. È un orgoglione. Dimmi figlioccio, quanto è il segnale? Sto filmando, vieni avanti e poi vieni avanti Walter, vai Marco lì. Sono un po', vediamo un pochino, dai, ma così gli facciamo venire il malumore, perché si stava gasando, perché se avevo segnale scava l'altra parte del pianeta e lui ha sentito un grongo. Vai zio Walter. Io sono basso Marco, non posso andare oltre queste io segnale, a te Marco. Lo crepi! Buonasera Marco, contro l'attaccamento per cortesia. Ci mi sto attaccando, ah! Ma l'hai filmato che si taglia le vene! Germany, Bavaria, Alemania, tieni mi gol. Quando giochiamo, giochiamo, ma poi quando bisogna giocare pesante, si gioca pesante allora, Maledetti, maledetti. 9 più 10, 9 più 5, 9 più 10, la curia, la grande. E lui con l'amplificatore, Giugheni, non io con la radiolina. Hai zitta, zio. Attento, Marco, di Alghero, buonasera, tutti e due. Un controllo, come fa cortesia? Marco Giotto, dai il controllo a doppio rum. Doppio rum, vieni avanti. Ciao Marco, buonasera. Volevo un controllo anch'io per vedere come andare in Borghero, dai. Sì, vieni avanti, avanti, Saladino, vieni mi coppi. Caffaraccio, va bene. Andava in... Ciao, Marco, vieni a conto. Ma si è attaccato adesso già. Ma come mai state andando in FM e non in AM? Perché c'è propagazione dalla Polonia, dalla Germania, dalla Grecia, e sono tutti in FM. In AM non va nessuno. Mi stavano disturbando, li ho fatti passare io a questi ragazzini, così siamo qui a fare di ex. La cortesia, ripetimi i segnali che non ho sentito bene. Vai a ricassare i segnali, per favore, un attimo, grazie. Aspetta che c'è qualcuno dal Palma, orgoglio algherese, chi è avanti? Chi è? Oh, è Sandro Conan, che bello sentirti. Alfa Lima c'è, orgoglio catalano Onir. Come stai Sandro? Molto bello. Sono in compagnia di Marco Cobra e di Walter, e poi c'è anche Marco Condor, e un po' di amici, e doppio room anche, tutti di Sierra a Sierra, Ci stiamo sentendo qua... Il morto del Cobra! Ogni tanto, sono passato a salutarli. Comunque arrivi in fondo scala, Sandro, perfetto, complimenti. Vai, Walter, riprendi tu per Sandro Conan di Alghero. Anzi, facciamo una comparazione così, per vedere come arriva Sandro e come arrivo io. Vai, Walter. Tu arrivi 9:10, Sandro lo sento. Cacchio, ma sa, cosa sei con l'antenna della macchina? Hello, sono Delia. Io sto andando con 80 watt per provare. Vabbè, l'HS, adesso metto l'omologato anch'io al volo. Arrivi a Sassari bene, Cora, 65455, ciao Marco Scorpia. Vai Marco, lo senti Sandro Conan? Sì, ho detto 54-55 Conan. 260 Vision, Manchester UK calling. Molto bello. Marco è... vabbè, è la stazione numero uno di Sassari, quindi che cosa si può dire, non è che... è normale, lui sente tutti. Bene, Sandro, che bello sentirti, mi fa veramente piacere, ma hai possibilità di passare in 2 metri? Aspetta, dimmi la 525. Aspetta un attimo, Sandro, dai i rapporti che ricevi qua dalla stazione di Sassari, per favore. Ciao da Marco Scorpion, qua ti ho detto 54-55, poi ci sono anche gli altri amici, doppio room, Tino, eccetera, eccetera. Sì, aspetta che ti vanno avanti gli altri, vai Tino. Vai, non lo sento io, vai. Vai doppio rum e poi c'è anche un break, c'è la stata da far venire avanti. Walter 5910, poi c'è doppio room che arriva intorno al 59, poi c'è Dino Muscolo intorno al 5657. Ok, perfetto, perfetto, peccato doppio room, l'ho ripreso poi. Vediamo se ripete ancora. Gianni? Sì, sì, sono qua, sono andato a pulire la porta ed è arrivato il mio figlio. Sono qua. Ok, vediamo se Conrad ti riceve. Conrad, lo ricevi a doppio room? Sandro Conad. Io lo sento Conad, anche se parla ti ascolto. Non capisco come mai non mi ascolti più, forse la zona. Qua arrivi Angelo, allora posso rifilare la classifica di come vi ascolto? Allora, primo Marco Scorpion, 9+20, secondo doppio room che arriva intorno al 9+10 e poi terzo Walter e quarto Tino. Questa è la classifica certificata da Marcolino Giotto. A me niente. Bene, aspetta, fai un passaggio che riguardo. Ecco qua. 1, 2, 3. Oh, where are you please? We are from Sardinia Island. You are 59, 5 and 9. My name is Marco. Go ahead. Don't give me a chance. Io arrivo più basso di doppio room. Dove sta cosa? Ti dirò di più. C'è l'ultimo passaggio che si mette prepotentemente al terzo posto e mi scali al quarto. Quindi sì, la classifica è Marco Scorpion, doppio room, poi c'è l'altro amico che non ricordo il nominativo, poi ci sei tu e poi c'è Tino Muscolo. Perché noi siamo tutti coperti da Monte Oro, verso quella zona, e lo sappiamo da una vita, no? Ormai facendo radio. Mentre se entra, che non c'è Massimiliano e Santa Teresa, che non sentite, non sente nessuno, io e Tino Muscolo parliamo con Santa Teresa e con tutta la costa e voi non sentite una vega. Sì, va bene. Anche quante watt stanno utilizzando loro, che noi non ne abbiamo. No, io ne ho, non è quello Tino, no. Non è questione di watt qua, è questione di posizioni. La Juve sta perdendo, adesso è nervoso. In alcune zone sono aperto meglio di Fanni e Fanni ha aperto meglio di me in altre. Ormai è un... Sono così. Bene, perfetto, perfetto, perfetto. Però Walter, questo quarto posto mi rammarico un po', devo essere sincero, te lo dico d'amico perché sei il mio idolo per tutto, tu lo sai che io ho grande stima, però il fatto che Marco ti lascia a quattro posizioni, cioè padrino è padrino, vero padrino? Ma dove? Per anche... Carissimo, carissimo figlioccio, Scappa Marco Condor, Walter, Walter, ma... Aspetta. Walter, ma Marco ti ha parlato sopra. Vai avanti Marco Condor, ciao Marco. Ciao a tutti. Oh, notavo Marco, sei molto espanso in FM, di strappi quasi. Allora, attenzione Giotto, guarda, attaccato così, 70... Così sono tre. E lascia il 60, va, che altrimenti Walter ti scala di due posizioni. Avanti, breco, breco. Sai che facciamo un attimo di questi greca? Vai al 15, sa, cos'era? 135, vero? Domanda, quanto vi arriva Sandro Conan? 54 a me, a Marco Scorpion, a Marco Condor. 54, ne arriva 9-10. No, perché qua arrivava 5, ma è nel suo QRM elettrico 5, praticamente è nel QRM elettrico. Sono stritolato le palazzi, dai. Walter, guarda che sta dicendo quello che tu non senti neanche, Conan, Sandro Conan stava dicendo, tu non lo senti neanche, che non aveva più 10, hai detto che non lo ricevevi. No, io intendevo Marcolino. Marcolino, Marco Condor stava chiedendo di Sandro Conan. Il profeta, ciao, buonasera, abbiamo sentito questo doppio run, Scorpion che sarei io, Marco Condor, Gianni doppio run, Diabolik, Marcolino Giotto che si è spostato con Sandro Conan che si sono spostati avanti. Ciao, buonasera, guarda, vediamo se ti sente Walter, vai Walter. Sì, non sento dai punti, io lo credo. Oh, Lubrofetta, la modulazione è troppo larga, prova a mettere i mic gain a metà. No, no, non ci siamo. Lì sicuramente mi è scappato il cacciavite sulla deviazione FM. È vero, eh. È vero, perché io non lo sento chiaro lo stesso. A me, scusa, mi sono distratto un attimo perché è venuta una persona. No, no, il profeta, l'emissione è troppo, talmente larga. Sicuramente io l'ho fatta a occhiometro e va in distorsione. Bisogna abbassare la deviazione FM, diminuirla. Aspetta un attimo, scusa, profeta. Continuate avanti. Tu sei ai punti, no? Avanti. Sei ai punti. Sono arrivato in contatto di tutto. E lì papà hai detto prima. Lì papà, papà, danno i punti quando abbiamo iniziato, vabbè. Adesso è iniziato un casino che a casa ci sono i bambini. Va bene, la serata è andata così, in chiusura non c'è certo bene. Stanno rovinando la quarta posizione. E mi è andata anche bene, ti ho detto che io sono chiuso per, e lo sai, inutile che, se no sei infedele, sei infimo. Lo sai, Alghero è chiuso, tutto il resto del mondo buschi, perché te lo dimostro quando vuoi. Ma voi quanti watt avete adesso? 3 kW. Sul serio? Sì, cioè 3-2. Marco? Come sono 40 watt. Ah, vabbè, per avere un'idea mia, come arrivavate al Alghero. Comunque arriva sparato Giotto, Giotto, vabbè, sono 80 watt, ma 9,5 è pieno. Arriva bene mio figlio. Va bene, un bel impianto. Vabbè, dai, Alghero, va bene, se entrano stazioni da fuori, in distanza, che facciamo le prove... non ce n'è per nessuno, però qua in zona è inutile che parla l'ubrofetta con Alessio che sono a 2 metri, per dire, non so cosa da fare. Olanda, oh, Italy, dice Olanda, Mi Olanda ti sta chiamando. Olanda, you copy Italy Station Walter. Ok, my friend in Holland, you copy station Walter, Diabolic. Yes, thank you so much. I'm in Sardinia Island with my friend here near my home, Marco Lubrofetta, Futibini. What is my real signal? What is my real signal? Sorry, don't understand. Thank you for 40 dB over 9. Okay, just a moment. I have another station. The name is Marco Sgorbio. After Marco Giotto. Vai Marco Sgorbio. Please, give me a report. Good evening. I have the very strong in Sardinia. My name is Marco Scorpion. Please, give me a report. Over, over. Thank you for 950. Thank you. Many thanks. Please stand by one moment. The other station from Sardinia. Vediamo un po' che vuoi andare. Ok, stand by one moment. Doppio due, vuoi andare? Vuoi tentare? Marco Condor. No, io getto la spugna, non ci siamo, non lo sento nemmeno quasi. Hai capito la differenza, entra il Alghero. Allora Marco, se sei onesto adesso, perché ti ho registrato, a me 9 più 40, a te 9 più 15, cosa vuol dire? Che ti faccio il QAS sempre fuori da Alghero. Ciao, devo guardare la Juve che perde. Sì, mandalo questo video, 9 più 50, non 9 più 15. 9 più 15 tra l'altro, cosa più 50, dove stai andando, vici il Garruzzo, vi va. Io, ciao. 9 più 50 ha detto. Gesù, mamma mia. 9 più 50 ha detto. 15. Un tiro muscolo. Adesso avete capito che elemento è. Non avevo dubbi. Non accetta sconfitte, non è da fare. Si arrampica dei specchi così. Allora, ciao. Che brutto, però è quarta posizione per sé. Ciao, devo staccare che sto disturbando. Vi saluto a tutti, ciao Marco Condor, ciao Doppio Run, ciao Tino, ciao Diaburi, che peccato in quarta posizione, io ti vedevo almeno secondo o terzo, invece sei un po' più indietro. Va bene, ciao Lubrofetta, ciao a Marcolino Giotto e a chiunque fosse in ascolto. Un saluto a tutti, buon fine domenica da Marco Scorpio. Ciao, magari dopo cena. Sì, che si era arrivato le continuo a dire cazzate grave. Verso Alghero, non posso fare niente, sono coperto a Monteone. Verso il resto del mondo, buschi ovunque, perché la mia stazione è la più forte della Sardegna, la più performante, dunque non ha senso, è come rimanere da te un bambino. Ciao, ciao Profeta, ciao Marcolino, ciao a tutti. Muscolo, ci sentiamo dopo, dai, che mi guardo un po' di partita. Ciao qua, ciao ciao. Ciao ciao. Gianni, boh, se volete passare il nome, perché io sinceramente a Gianni non lo ascolto benissimo. Sì, veramente, ciao Walter, ciao Marco. Non si sente in FM, è inascoltabile. Siamo in una... così almeno.